latte buona, cioccolato e dolce, e pure camomilla bene fa. Rinfresca l'orzo e il vino fa felice, e solo l'acqua sete fa passare. Ma un milione gente è Napoli come me, non vuole sapere niente e campano con caffè. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità. Che adoro il caffè, casa sento per sta città, è un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va piglia. Come nascito sento bebè, carici me me, non poche caffè, e l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, l'espresso che te. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa, e così si è spiegato perché, che per tutta giornata, una tazza bonata, saccata si scarpa, se bevo caffè. Se trova scusa, chi lo fra una denata lo fra a me. Nessuno dice no perché non offesa, so già sei tazze songa bene tre. Ma mentre faccio punta, un'amica mi chiama, uè, e fermate un momento, vivimmo già un caffè. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità. Che adoro il caffè, casa sento per sta città, è un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va piglia. Come nasce to sento bebè, cari cimè mè, non poche caffè, e l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa, e così si è spiegato perché, che per tutta giornata, una tazza buonata, saccata si scarpa, se bevo caffè. Che bello!